Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Questa sera cominciamo così, ascoltate. Sì, ma cos'è la quarta dimensione? Oh, è quella... Oh, è pura teoria. Nessuno sa cos'è la quarta dimensione e neanche se esiste. Al contrario, dottore. La quarta dimensione è reale e vera come le altre da lei nominate. Che senza la quarta non esisterebbero. Facciamo una premessa. Perché noi trascuriamo la quarta dimensione? Perché non abbiamo libertà di moto in essa. Noi possiamo muoverci nelle altre, su, giù, avanti, di lato, indietro, come ha detto il dottore. Ma di fronte al tempo siamo prigionieri. Lei ha dato una chiara spiegazione, d'accordo, ma purtroppo non vedo il nesso. Walter, senta, ci sono molte cose incomprensibili a questo mondo. Sì, certo, innumerevoli. Ma lei non si rifiuta di accettarle solo per questo, vero? No, se posso averne una dimostrazione. Molto bene. Signori, quello che vi chiedo adesso è di constatare da voi le possibilità di movimento nella quarta dimensione. Era uno stralcio tratto da L'uomo che visse nel futuro, film del 1960, prima trasposizione del romanzo di Wells famosissimo, La macchina del tempo. Ebbene no, non sto per annunciarvi la scoperta della macchina del tempo, tempo di cui restiamo prigionieri, come ricorda il protagonista del film. Quello che però possiamo fare certamente è utilizzarlo meglio, questo tempo. Per esempio cercando di liberarlo da alcuni vincoli troppo stretti, come per esempio un orario di lavoro eccessivamente rigido. Ebbene, Microsoft, ben nota insomma Software House, sta appunto sperimentando questa possibilità. Silvia Candiani, che è direttore marketing di Microsoft, ne ha parlato con Federico Pedrocchi. Sentite com'è andata. Noi crediamo che una delle cose fondamentali nel mondo di oggi sia migliorare il modo in cui lavoriamo, proprio perché passiamo tante ore al lavoro, ma dobbiamo assicurarci che questo venga fatto in maniera semplice e produttiva, ma che permetta anche una migliore conciliazione tra i tempi personali e i tempi dedicati al lavoro. Lo predichiamo da tanto tempo, ma abbiamo avuto il modo, diciamo, più forte di dimostrarlo da quando ci siamo trasferiti nell'Innovation Campus qui a Peschiera Borromeo e abbiamo messo in pratica compiutamente molte delle cose che andiamo a raccontare ai nostri clienti da qualche anno, e cioè un modo di lavorare totalmente flessibile. In questo ufficio, come si può notare, non esiste una scrivania fissa, quindi le persone si possono sedere indipendentemente non hanno un posto, ma possono sedersi insieme alle persone del loro team, ma soprattutto c'è un concetto di flessibilità completo, quindi le persone possono lavorare da casa, dalla sede del proprio cliente, quando sono in giro, e grazie agli strumenti della nostra tecnologia hanno la possibilità di essere sempre connessi come se fossero in ufficio, quindi fare riunioni virtuali, magari anche con la videocamera, quindi vedendosi con i colleghi in contemporanea, vedendo a video una presentazione, possono farlo anche dal cellulare, e quindi in qualche modo si va oltre al concetto della presenza fisica come necessità per lavorare, e invece si attivano tutta una serie di strumenti per permettere di poterlo fare con tempi e modalità molto più flessibili. Se non sbaglio, c'è, per creare questa delocalizzazione di tutti, c'è anche il fatto che tutta la documentazione, il materiale che quindi fa parte del patrimonio conoscitivo dell'azienda, anche quello è completamente accessibile dall'esterno? Assolutamente, no? Ci sono delle parti private, personali, ma anche delle private parti dedicate al team, per cui se io lavoro con dei miei colleghi su un progetto, per esempio, di miglioramento su un cliente, possiamo avere tutti i documenti messi a disposizione dell'intero team su questo SharePoint, e io posso accedere a questi documenti dovunque io sia, quindi in ufficio, ma esattamente allo stesso modo a casa, e posso peraltro anche lavorare su questi documenti insieme ai miei collaboratori, quindi su una presentazione magari io lavoro sulla prima parte e mio collega in contemporanea sta lavorando sull'ultima, poi quando abbiamo completato possiamo vederci mezz'ora via videoconference e commentiamo magari il risultato del nostro lavoro, e quindi questo permette anche di ottimizzare i tempi personali, per cui se magari ho desiderio di lavorare da casa perché ho un impegno personale alle 4, lo posso fare rimanendo comunque altamente produttivo e magari invece ritagliandomi dei tempi per finire le cose che devo fare più tardi nel pomeriggio. C'è anche un bar, ristorante, si può lavorare anche lì? Si può lavorare anche lì, ci sono delle zone con dei divanetti o con dei salottini per cui si possono fare anche dei pranzi di lavoro col team o con anche i clienti, c'è anche un'area esterna con dei tavolini per accessibilità tipicamente in primavera estate per lo stesso motivo, e quindi se vogliamo la massima flessibilità anche nella modalità di lavoro, per cui io magari se la mattina lavoro con certi miei colleghi mi siedo vicino a loro, nel pomeriggio invece magari ho delle riunioni con altre persone, mi siedo in un'altra parte dell'ufficio. Ma insomma, questo è solo un primo assaggio di una tematica, questa della gestione intelligente del tempo, che tornerà spesso qui a Smart City. Perché abbiamo detto alcuni degli effetti che si possono ottenere in questo modo. Il principale di cui abbiamo parlato oggi è la possibilità, per esempio, di conciliare vita privata e vita lavorativa, cosa già non da poco, ma pensate per esempio ai riflessi sul traffico, se invece di iniziare tutti a lavorare più o meno alla stessa ora, ognuno avesse una sua tabella di marcia personalizzata. Insomma, su questo tema ci torneremo, però per questa sera ci dobbiamo fermare qui. Buona serata e a domani.